Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera parliamo di quattro libri e di una casa editrice che festeggia i 40 anni, appunto, quattro libri. La casa editrice è Rubettino, abbiamo con noi Florindo Rubettino. Buonasera, dottor Rubettino. Buonasera. E abbiamo con noi anche il professor Dario Antiseri, che ha curato in parte la realizzazione di questi libri. Buonasera, professor Antiseri. Buonasera, dottor Fabi. E i libri sono dei classici delle idee liberali, da Karl Popper sul problema del metodo della psicologia del pensiero, a Luigi Einaudi, Il mio piano non è quello di Keynes, a Von Mises, In nome dello Stato, a Rosario Romeo, Italia, mille anni. Ecco, quattro libri per festeggiare i 40 anni. Parliamo innanzitutto allora della casa editrice, la casa editrice Rubettino, fondata 40 anni fa da Rosario Rubettino, padre di Florindo, che è l'attuale titolare, in un piccolo paesino della Calabria, Soveria Mannelli. Ecco, Florindo Rubettino, cosa pensavate quando avete fondato con suo padre questa casa editrice? Di arrivare dove siete arrivati? Ma sicuramente c'era l'idea di fare di questa casa editrice un centro di elaborazione di pensiero che non fosse confinata né per temi né appunto geograficamente nel luogo da cui partiva, cioè la Calabria degli anni 70, che era un territorio abbastanza periferico. La sfida di mio padre è stata quella di dimostrare che si può partecipare al dibattito culturale, e il risultato che credo possiamo celebrare con questi 40 anni è il fatto che comunque la casa editrice Rubettino non solo ha partecipato al dibattito culturale, ma è stata portatrice di un patrimonio di idee che nel nostro paese forse non erano molto affermate, probabilmente stavano un po' al di fuori di quella che era in qualche modo ciò che l'editoria tradizionale proponeva. Credo che questo sia un buon contributo che la Rubettino ha dato in questi anni. Ecco, quindi un filone essenzialmente liberale, portando in Italia i classici dell'economia, del pensiero, della filosofia liberale, la scuola austriaca e altri filoni appunto di pensiero liberale, ma aperti anche al dibattito, alla discussione con altre realtà e con altre appunto impostazioni, appunto in un confronto aperto per far crescere la società. Quanti libri producete ogni anno, dottor Rubettino? Ma mediamente le nostre novità sono 100 all'anno, e poi ci sono anche ovviamente le riproposte, quindi arriviamo a un 120 titoli all'anno. Qual è il titolo che le ha dato maggior soddisfazione in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni? Ma i libri sono tanti, perché i libri sono è un po' difficile, come per i figli, fare le classifiche su, certo, su chi ha dato più soddisfazione. Io credo che se c'è appunto più che un libro un filone che più di tutti ci ha contraddistinto in questi anni, e l'attenzione appunto alla scuola austriaca di economia e scienze sociali, di cui tra l'altro il professor Antiseri è autorevolissimo rappresentante e anche artefice di queste nostre collane, che in qualche modo rappresenta un po' il patrimonio più importante, che è l'asset più importante che la casa editrice ha, e che non è semplicemente un filone di pensiero teorico, ma che poi ha tutta una serie di ricadute anche su un'altra serie di pubblicazioni che facciamo, che per esempio si confrontano con le policy, con tutto ciò che riguarda anche i problemi contemporanei cui la nostra società deve far fronte. Ecco, allora andiamo al professor Antiseri, che appunto, come diceva Rubettino, ha tradotto, portato in Italia, commentato e anche sollecitato la pubblicazione di questi libri della scuola austriaca, da Hayek a Popper a Mises, che hanno costituito appunto degli elementi di dibattito negli ultimi anni. In questa collana appunto, che viene pubblicata per i 40 anni di Rubettino, c'è Karl Popper sul problema del metodo della psicologia del pensiero, che è la tesi di laurea del filosofo austriaco. Ecco, professor Antiseri, qual è l'importanza di questo testo? Ecco, prima di rispondere a questa domanda, mi permetto, dottor Fabi, di dire che io penso che la più ampia cultura italiana, debitrice appunto all'editore Rubettino, padre prima e figlio poi, appunto di una serie di volumi che effettivamente o per ragioni ideologiche, ovvero per disinteresse, ecco, non erano appunto presenti nella nostra cultura. Quindi è stata veramente un'apertura morale e intelligente appunto a dar vita a questa casa editrice e a questi libri. Bene, lei mi fa la domanda l'importanza di questo libro. Dopo questo libro verrà pubblicato, questo è il primo, diciamo così, libro di Popper, ma l'ultimo libro di Popper sono le repliche ai miei critici, Ripasto My Critics, e dopo questo, quindi la Rubettino ha preso il primo, adesso è l'ultimo libro appunto racconto di Popper. L'importanza di questo libro è vedere come nasce, ecco, veramente come stato nascenti, sorge e zampilla dalla grande Vienna questo grosso filone di razionalismo critico, cioè il pensiero di Popper. Quindi si parla appunto dei maestri di Popper, soprattutto di Karl Bühler e poi appunto anche di Heinrich Gompertz e dell'ambiente appunto viennese dell'epoca. Ecco, la cosa importante è capire che lì nasce l'idea appunto di pensiero come tentativi di soluzione di problemi, tentativi che sono sempre fallibili. Quindi è l'idea di fallibilità della conoscenza umana che vediamo appunto sorgere da questo libro, idea che poi diventerà fondamentale per il Popper politico, nel senso appunto che la società aperta trova uno dei suoi fondamenti in questa consapevolezza di essere fallibili, perché se io so di essere fallibile e lei sa di essere fallibile, allora io sono andato a lei delle alternative, delle critiche ai miei pensieri, alle mie teorie, alle mie soluzioni, e lei appunto sarà andato a me per le critiche che io farò a lei. Dunque, ecco, discuteremo, e la discussione è l'anima della democrazia. Ecco, la discussione è l'anima della democrazia, è giusto, la discussione è basata appunto sulla convinzione che si possa sempre fare dei passi in avanti, si possa sempre confrontare, si possa sempre avere, tenendo al centro la persona, le necessità delle persone, avere una prospettiva di crescita dell'economia. Ecco, per questo è importante anche fondarsi sui classici e non dimenticare anche i classici italiani, che troppo spesso dimentichiamo. Un altro libro di questa collana è Luigi Einaudi, Il mio piano non è quello di Keynes. Direi che sono estremamente attuali questi scritti inediti di Einaudi, curati da Francesco Forte, in cui appunto si parla apertamente di un ruolo dello Stato che è messo criticamente in luce dallo stesso Einaudi e che costituisce uno dei filoni della scuola austriaca, professor Antisani, no? Certamente, perché qui Einaudi critica appunto la proposta di Keynes, cioè dell'interventismo dello Stato nei momenti di crisi, cioè dove Einaudi dimostra che la cura proposta da Keynes è appunto peggiore della malattia. Ma questo, come diceva lei, è anche un'idea fondamentale di fondo della scuola austriaca d'economia, Mises e appunto Hayek. Dobbiamo pensare che Hayek ha insegnato appunto in Inghilterra, a Londra, a questo stato di 18 anni, di una contesa continua appunto con Keynes. Quindi lo Stato certamente per il liberale è importante, ma uno Stato, come fu il caso della scuola di Friburgo, uno Stato fortissimo a difesa delle libertà, cominciare dalla libertà appunto economica. Ecco, quindi su questi libri c'è anche un grosso impegno dell'editrice Rubettino, c'è anche una collana dedicata alla scuola austriaca, Florindo Rubettino. Sì, c'è appunto la collana Biblioteca Austriaca, che è diretta, oltre che dal professor Antisari, anche da Lorenzo Infantino, dal compianto Massimo Baldini e da Sergio Ricossa, che è un altro maestro del pensiero liberale, del quale stiamo tra l'altro ripubblicando tutte le opere. È appunto una collana che ha negli anni pubblicato da Menger a Ben Bauer, a von Mises, a Hayek, a tutti i grandi del pensiero austriaco che, ripeto, per anni non erano arrivati nel dibattito italiano, sebbene altrove fossero dibattuti e studiati prima degli anni 50. Ecco, dottor Rubettino, cosa avete in vista per i prossimi mesi, anche al di là, direi, di questa scuola austriaca che è fondamentale, di cui abbiamo dedicato ampio spazio in questo programma? Quali sono un paio di anticipazioni che ci può dare sulle vostre prossime uscite? Sì, intanto, restando all'attualità, vorrei segnalare il libro di Pierfrancesco De Robertis sulla casta invisibile delle regioni, che è il primo titolo che denuncia con numeri quello che poi si è rivelato come il grande scandalo del malaffare degli enti locali e delle regioni italiane. Poi abbiamo due classici del pensiero politico, uno è Samuel Huntington, il grande autore dello scontro delle civiltà, e un altro è Robert Nisbet, e poi abbiamo ancora altri piccoli classici come Schumpeter, Gadamer, Weber, Popper, e poi continua anche la grande nostra attenzione, questo è un altro filone che in questi 40 anni ha contraddistinto la casa editrice Rubettino, la grande attenzione al tema della criminalità e delle mafie, con un bel atlante delle mafie che per la prima volta mette insieme gli studi sulle tre mafie più importanti del nostro paese, mafia, Camorra, 'Ndrangheta, a cura di Enzo Ciconte, Isaia Sales e Francesco Forgione. Vedremo se avremo occasione di parlarne in questo programma. Complimenti per l'impegno a Florindo Rubettino, titolare della casa editrice Rubettino. Grazie anche a Dario Antisari, che è stato con noi questa sera per illustrarci i libri appunto che Rubettino sta pubblicando, pubblica in questi giorni per festeggiare i propri 40 anni di idee libere. Vi ricordo Karl Popper, su problema del metodo metodo della psicologia del pensiero, Luigi Einaudi, Il mio piano non è quello di Keynes, Ludwig von Mises, In nome dello Stato e Rosario Romeo, Italia mille anni. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.